9 in punto, la versione di Oscar. Buon giovedì 29 ottobre dal Oscar Giannino, che vi parlerà oggi di che cosa? Della guerra con la Svizzera, che abbiamo improvvisamente dichiarato dopo decenni e decenni di ottime relazioni diplomatiche e finanziarie. Tac! Ieri mattina centinaia di finanzieri in 22 banche hanno fatto irruzione, conti, armamentari, minacce, telefonate. Le autorità protestano. Non si era mai assistito a un incrudimento dei rapporti di questo genere. Certo, c'è lo scudo fiscale, bisogna incoraggiare i contribuenti che hanno patrimoni all'estero a regolarizzarli, ma la domanda è così che si fa? La domanda è, ci conviene davvero? E soprattutto, qual è la misura di civiltà da rispettare rispetto al diritto che i cittadini hanno a impiegare dove vogliono e come vogliono i propri patrimoni? Ne parleremo oggi, come capirete un pochino controcorrente rispetto alla solita retorica antievasione e che quindi giustifica lo Stato che mette tutti in riga. Ci porremo degli interrogativi anche dal punto di vista degli svizzeri, non solo dal punto di vista delle legittime esigenze dell'ordinamento italiano. Benissimo, che cosa è avvenuto 2 giorni fa? È avvenuto che improvvisamente in 76 diverse banche in 22 città italiane, quindi una manovra a tappeto, centinaia di finanzieri e di funzionari dell'Agenzia delle Entrate si sono recati presso sedi, filiali, agenzie di istituti bancari svizzeri o di istituti bancari italiani che hanno rapporti con intermediari svizzeri in Italia e hanno iniziato a chiedere dei documenti, dei DVD che poi hanno proceduto a sigillare, cioè hanno chiesto di verificare una specie di carotaggio, di ispezione a campione di come vengono tenute la contabilità e di come vengono formalizzate le procedure per le operazioni poste in essere da clienti e di come esse vengono, quando riguardano appunto rapporti con intermediari bancari svizzeri, di come esse vengono poi comunicate all'archivio centrale degli intermediari bancari. Quindi è stata fatta un campione di tipologie di operazioni, di tipologie di clienti, si è chiesto immediatamente l'accesso ai dati che li riguardavano, li si è sigillati e sulla base di questi dati ovviamente la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate si riserva poi di controllare per ciascuno di questi intermediari bancari se vengono posti in essere tutte le comunicazioni prescritte con l'archivio centrale per gli intermediari finanziari, che consente alle autorità amministrative del fisco italiano di verificare e di controllare se i contribuenti del nostro paese pongono per caso in essere operazioni bancarie o finanziarie in evasione o in elusione dei nostri obblighi di pagare le tasse nel nostro paese attraverso il sistema bancario e finanziario svizzero. Certo, quello che colpisce è la subitaneità di questa operazione improvvisa. E le autorità non solo bancarie ma svizzere, federali, cantonali hanno iniziato a parlare in termini molto duri dell'Italia, hanno convocato l'ambasciatore in Italia presso la Confederazione, si parla da parte del sistema bancario di una vera e propria razzia. Ecco, ci chiediamo con i nostri ospiti e vi chiediamo di intervenire all'800 24 0024 se, sia pure nel, questo è il mio punto di vista, legittimo e comprensibile intento di avviare i cittadini italiani ad avvalersi nella maggior quantità possibile dello scudo fiscale in corso, perché questa mi sembra la vera finalità di questa operazione, si debba ricorrere a strumenti di questo tipo, a strumenti molto molto aggressivi, per così dire, nei confronti di un paese, lo dico senza voler ledere la suscettibilità di alcuno, che ha dei grandi meriti nei confronti dell'Italia, e il paese nei confronti del quale molti italiani indirizzarono i propri figli, i propri nipoti, i propri familiari quando ci furono le leggi razziali, tanto per dirne una, e il paese nei confronti dei quali molti italiani abbienti indirizzarono i figli e le famiglie quando per 15-20 anni c'era il concreto sospetto che potessero essere o rapiti dalla malavita o invece fatti attacco di attentati quando ci si trovava nella lista delle Brigate Rosse, e un paese che nei decenni di instabilità finanziaria del nostro paese ha accolto e protetto il risparmio di moltissimi italiani. Se riduciamo questa storia di libertà e di tutela della riservatezza garantita dalla Svizzera a una specie di iniqua concorrenza ai nostri danni, ora che l'Italia, come tutti gli altri grandi paesi, sta cercando di riappropriarsi di consistente dose del proprio gettito fiscale che gli italiani, come tutti gli altri, finché c'è libertà dei capitali, riservano a impieghi in paesi con tasse meno pesanti. Secondo me, noi commettiamo un grave errore storico e una grave violazione alle libertà dei capitali degli individui, ma questo è il mio punto di vista minoritario che qui dichiaro e mi taccio, perché adesso passo ai nostri ospiti ed è a loro che chiederemo, insieme a voi che interverrete, all'800 24 00 24, di dire come la pensate e se il mio punto di vista, come spesso capita, sia totalmente minoritario. Chi sono i nostri ospiti? C'è innanzitutto Piero Ostellino, editorialista del Corriere, che io ringrazio molto. Buongiorno Ostellino. Buongiorno. Poi abbiamo Laura Sadis, che è consigliera di Stato e direttrice del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia del Canton Ticino. Buongiorno signora Sadis. Buongiorno. E poi abbiamo Stefano Fassino, che è responsabile di finanza pubblica del PD, già consigliere economico di Viscova. Insomma, è una persona che segue in maniera professionalmente e tecnicamente molto dettagliata queste questioni, al di là dell'appartenenza poi a un fronte politico. Buongiorno Fassina. Buongiorno a voi. Allora, iniziamo con Laura Sadis. Dal punto di vista della storia dei rapporti tra Italia e Svizzera, eccetera, eccetera, questa vicenda è un po' singolare. Lei come la giudica? Guardi, io devo dire che condivido perfettamente le sue considerazioni introduttive. Evidentemente è un paese assolutamente sovrano ad adottare una misura come un'amnistia fiscale. Quello che lascia me, ma un po' la Svizzera, tutto il nostro paese, perplessi e anche un po' sconcertati è questa aggressività dei toni e dei metodi. Io vorrei dire una cosa: la Svizzera continua ad essere considerata dalla Repubblica Italiana un paradiso fiscale, in realtà la Svizzera non è un paradiso fiscale, prova ne è che il nostro paese è in lista bianca dell'OCSE, ha comunicato che si adegua all'articolo 26 per quanto attiene allo scambio di informazioni del modello dell'OCSE, e quindi quello che non riusciamo a capire è come il nostro paese continui a rientrare nelle liste nere italiane. Questo secondo me è il nocciolo della questione. Fassina, non le chiedo naturalmente di difendere l'operato, la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate, né tantomeno eventuali decisioni del governo, ma da un punto di vista sistemico e dal suo punto di vista di osservatore politico, questo scatto in avanti che l'Italia fa oggi nei confronti della Svizzera, ma che poi per esempio gli Stati Uniti hanno fatto nei confronti delle banche svizzere. Ieri c'è stata la prima condanna per evasione fiscale di un cliente americano OBS, un anno di carcere. La Germania ha fatto, corrompendo funzionari sleali di grandi banche svizzere per appropriarsi di dischette con decine di migliaia di dati di conti correnti dei cittadini tedeschi in Svizzera. Anche questo non era avvenuto. Ecco, questo grande contesto di assalto ai paesi che hanno il segreto bancario o hanno comunque anche aliquote fiscali più basse sui depositi bancari, ci aiuta a capirlo meglio e a capire se è giustificato, perché è giusto così? È una svolta di civiltà o di inciviltà, secondo lei? Ma io credo che sia sostanzialmente un atto prevalentemente propagandistico da parte del nostro governo, perché credo sia abbastanza inverosimile assumere che ci sia stata una disapplicazione di massa da parte delle banche svizzere della normativa che viene contestata. Mi pare che il governo sul suo scudo, che io preferisco chiamare condono fiscale, sia in grande difficoltà, perché nonostante quello che ripete il ministro Tremonti è al di fuori dell'ambito OCSE, in particolare per quanto riguarda l'anonimato, e quindi cerca di recuperare un minimo di credibilità con questa offensiva. Ritengo che se la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate hanno proceduto, evidentemente hanno avuto degli elementi per farlo, dopodiché credo lasci un po' il tempo che trovi. Il punto di fondo che vorrei ricordare ai nostri ascoltatori è il seguente: è vero, come ricordava ora la dottoressa, che la Svizzera è passata alla lista bianca dell'OCSE, dopodiché è anche vero che l'Italia non è tra i 12 paesi che hanno negoziato accordi bilaterali con la Svizzera per farla approdare alla lista bianca dell'OCSE, e questo è un punto importante. Perché l'Italia? Perché il governo italiano, che pure è tra i più interessati a rinegoziare un trattato bilaterale con la Svizzera, non è stato tra i primi 12? È evidente che una volta che la Svizzera è passata nella lista bianca dell'OCSE, diventa molto più complicato ottenere dalla Svizzera quello che ha concesso ad altri paesi, perché la Svizzera è già dentro la lista bianca dell'OCSE. Allora, per questo dicevo all'inizio, mi pare più un'operazione propagandistica che di sostanza, perché se il governo voleva fare un'operazione di sostanza si sarebbe attivato immediatamente, come hanno fatto tanti altri paesi europei, come hanno fatto gli Stati Uniti, per essere tra i primi 12 ottenere un accordo bilaterale che allentasse un minimo il segreto bancario. Questo mi pare il punto di fondo. E l'altro è anche... L'altra grande contraddizione è nella circolare dell'Agenzia delle Entrate di qualche giorno fa, nella quale si prevede per la Svizzera il cosiddetto rimpatrio giuridico. Se si voleva effettivamente sollecitare un rimpatrio dei capitali e quindi colpire la Svizzera in quanto presunto paradiso fiscale, si doveva mantenere la possibilità soltanto del rimpatrio fisico dei capitali. Con l'escamotage del rimpatrio giuridico, in realtà, ancora una volta si conferma che l'atteggiamento da parte del governo italiano non è un atteggiamento coerente, non è un atteggiamento che cerca effettivamente di cambiare le cose. Quindi io ricordo a chi ci ascolta che il rimpatrio giuridico è una specie di forma intermedia tra la regolarizzazione e il pieno rimpatrio, che consente, una volta avvenuta la regolarizzazione, di mantenere l'impiego dei patrimoni e degli asset costituiti all'estero presso l'intermediario straniero. Questo lo dico per inciso tecnico, insomma. Assolutamente, ha ragione. Dopodiché io non condivido le valutazioni che faceva la dottoressa del Canton Ticino, nel senso che riconosco tutti i meriti storici alla Svizzera che lei ricordava, sono assolutamente d'accordo, e dopodiché il problema dei paradisi fiscali è un problema serio. E qui non stiamo quindi, parlando... quindi lei dice che è un paradiso fiscale la Svizzera? È un paradiso fiscale, il fatto che sia è entrato nella lista bianca... Lei dice che non prova nulla. No, prova che con 12 paesi ha rinegoziato, guardi su... Però aspetti, per far capire chi ci ascolta. Lei ha, mi pare di capire, criticato l'Italia perché non è tra i paesi che ha rinegoziato i rapporti bilaterali con... Allora, quindi, mi pare di capire, la critica è nei confronti dell'atteggiamento del nostro governo. Sì. Poi però, contemporaneamente dice, però la Svizzera resta un paese che dà troppe tutele, per così dire, sì, è così? Esatto. Sì, diciamo, non c'è contraddizione perché... Aspetti, allora, la interrompo, sentiamo subito Ostellino su questo doppio giudizio. Io non sono d'accordo, però sentiamo Ostellino come la pensa sui nostri rapporti storici con la Svizzera, questa improvvisa accelerata sui giudizi dati fino a qua. Ma per quello che riguarda i rapporti con la Svizzera, cioè, è un problema che possono risolvere i due governi bilateralmente, quindi la cosa, come dire, io la relegherei lì. Ciò che mi scandalizza e mi fa vergognare, letteralmente vergognare del mio paese, è la lettera del parlamentare svizzero, segretario del Partito Liberale Radicale, il quale ha denunciato sul Corriere che tutti coloro i quali attraversano la frontiera vengono registrati, fotografati in modo segreto, cioè senza che lo sappiano, perché così viene registrato il passaggio alla frontiera. Questo è un caso da Repubblica Democratica Tedesca. Quindi la violenza viene fatta nei confronti dei cittadini italiani, cioè qualsiasi cittadino italiano che attraversi la frontiera verso la Svizzera viene fotografato, ci sono delle telecamere che lo riprendono in modo segreto, cioè che lui non sa, ed è una violazione di diritti individuali. Cioè io fortunatamente per me o sfortunatamente per me, non lo so, non ho risparmi, io ho speso tutto nella mia vita, quindi non ho problemi di questo genere. Ma se io avessi dei soldi all'estero, non li riporterei in un paese che dà 1.000 euro a dei ragazzi che hanno superato bene la maturità e poi gli fa pagare le tasse. Cioè, dopo avergli dato 1.000 euro, gliene dà solo 650 perché si trattiene le tasse. Cioè, da vergognarsi. Questa sta diventando fiscalmente e psicologicamente e politicamente la Repubblica Democratica Tedesca. Mancano alle frontiere i vopos e i cani lupo. Questa è la vergogna di un paese e di uno Stato così vorace che porta via dei soldi a dei ragazzi ai quali sono stati dati 1.000 euro perché hanno superato bene l'esame di maturità. Oppure che fotografa e registra i suoi cittadini che vanno all'estero. Ma cioè è stato creato un muro elettronico che è uguale al muro di Berlino dal punto di vista morale e politico. Questa è la vergogna di questo paese. Ora, se lo Stato e se gli Stati sono diventati così voraci da esercitare una violenza sugli individui, compresi gli individui che non hanno nulla a che fare con il traffico di valuta, con l'evasione fiscale, eccetera, ma esercita una violenza nei confronti degli individui, io mi vergogno del mio paese. Cioè, io ho sentito delle persone che mi hanno detto: ma secondo lei le auto velox vedono anche quanti soldi io ho in tasca se attraverso con la macchina la Svizzera? Ma si crea un clima di terrore di questo genere nei confronti dei cittadini? Ma ci trattano così gli individui? Io mi stupisco come dopo quella lettera scritta dal deputato svizzero non ci sia stata nessuna reazione in Italia. L'unico che ha reagito dicendo: ma che razza di paese è mai il mio? Sono stato io. E ho aggiunto anche, io lo dico chiaramente, perché ci sarà qualche cretino che mi accuserà di essere favorevole agli evasori. Lotta all'evasione è una cosa, la violenza all'individuo, alle sue libertà fondamentali, è un'altra. Ecco, io credo che Ossellino vada ringraziato, lo dico, voglio dire pubblicamente, perché questo richiamo da ogni piccolo particolare, dalla tassazione di colui che si è diplomato all'autovelo, cioè, ci deve richiamare sempre al punto di fondo. Non è possibile che la presunta lotta agli evasori come motivo virtuistico, etico, eccetera, giustifichi invasioni così sistematiche dello Stato, dell'ordinamento pubblico, nella vita di ciascuno di noi, nei suoi diritti naturali più inviolabili. Ecco, questa è la questione di fondo. E allora noi partiamo dai controlli negli intermediari bancari svizzeri, ma l'atmosfera e gli strumenti attraverso cui tutto questo si cala è inevitabilmente, per chi ha una sensibilità ancora sulle questioni liberali dei diritti dell'individuo, ricade esattamente in questo filone, cioè quello che ha sollevato Ostellino, secondo me, perché altrimenti anche i rapporti tra stati, quando hanno a che vedere con le libertà economiche, si riducono alle esigenze propagandistiche o politiche del momento, diventano questioni senza principi, diventano delle fasi in cui si alternano a simmetriche esigenze di impressionare le rispettive opinioni pubbliche. Io ho l'impressione, anch'io a dire la verità, che queste irruzioni della Guardia di Finanza e degli ispettori dell'Agenzia delle Entrate rispondesse a questo tipo di finalità. Dottoressa Sadis, vero è però che oltre alle iniziative dell'Italia altri grandi paesi hanno seguito strade diverse, ma tutte incredibilmente energiche e senza precedenti da qualche mese a questa parte nei confronti del sistema bancario svizzero. Ecco, visto complessivamente nel quadro dei rapporti internazionali a proposito della tutela della riservatezza degli impieghi bancari nel vostro paese, le cose come stanno? Cioè, secondo lei la storia sta cambiando una volta per sempre, visto che Stati Uniti, Germania, insomma grandi paesi, anche l'Italia ci si è messa adesso, hanno cambiato registro, sarà una volta per tutte o lei pensa che la cosa poi tornerà come era prima una volta che si esce dalla crisi? Ma guarda, io credo che un concetto, quello che mi ha chiamato segreto bancario, ha avuto ed ha un'evoluzione nel tempo, che è assolutamente normale. Ma perché noi parliamo di segreto bancario? Perché, riprendo quanto detto da Piero Ostellino, la tutela della sfera privata delle persone, bisogna partire da lì. Allora, se è assolutamente condivisibile che gli Stati, soprattutto in un periodo di crisi, in particolare l'Italia con una situazione finanziaria molto preoccupante, un debito pubblico superiore a quanto un PIL generato in un anno riesce a rappresentare, ecco, la tutela della sfera privata delle persone e la lotta all'evasione, che sono due obiettivi importanti e civili in una società, non sono in contraddizione fra loro, e le spiego perché. La Svizzera è assolutamente disposta anche a introdurre un sistema di imposizione alla fonte definitiva e libellatoria, e quindi a fare in modo che le banche, anche svizzere, che gestiscono determinati patrimoni di residenti esteri, agiscono come vero e proprio sostituto d'imposta, garantendo quindi l'obiettivo prioritario, che è quello di lottare contro l'evasione fiscale. Nel contempo, in Svizzera la tutela della sfera privata delle persone e la tutela delle libertà individuali delle persone rappresentano un vero valore, e questi concetti non sono assolutamente in contraddizione fra loro. Ma io penso che ci sia un'altra lettura che deve essere fatta. Io credo che il ministro Tremonti, che è ministro delle finanze in Italia, abbia un grossissimo problema di cassa. E l'attenzione, come qualcuno prima diceva, è più sull'immediato che non sull'impostazione vera e propria dei rapporti internazionali, dei rapporti che toccano anche la fiscalità. E mi permetto di dire che non accettare l'impostazione che la Svizzera vorrebbe dare ai rapporti con gli stati esteri, che è imposizione alla fonte, definitiva e liberatoria, proporsi come sostituti d'imposta, garantire che non vi sia quindi partecipazione all'evasione nei paesi di residenza dei propri clienti e nello stesso tempo tutela giusta e legittima della sfera privata dei cittadini e dei clienti, questo ragionamento secondo me, se si è logici, dovrebbe essere accolto, al di là, come dico, di esigenze di cassa dei 3 o 5 miliardi che certo. Il ministro Tremonti adesso si attende. Ha come esigenza nel breve per il successo dello scudo fiscale. E io interrompo la dottoressa Sadis perché abbiamo adesso la pubblicità, la invito a rimanere con noi dopo come gli altri ospiti e poi ci saranno anche le vostre telefonate, intanto pubblicità. Nove in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando di questa recrudescenza improvvisa dei controlli che si è scatenata da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza nei confronti degli intermediari bancari svizzeri che operano nel nostro paese. Vi abbiamo offerto l'opinione delle autorità svizzere, vi abbiamo offerto l'opinione di Stefano Fassina, il responsabile finanza pubblica del PD, vi abbiamo offerto l'opinione di Piero Stellino che si è scandalizzato pubblicamente sul Corriere della Sera per questa come altre modalità che sono state poste in essere dall'ordinamento italiano di questi tempi per aumentare la pressione nei confronti degli evasori fiscali. Molti sms come prevedevo. Ci tengo a dichiarare, ancora una volta per evitare equivoci, che con quello che stiamo dicendo oggi, cioè sull'invito alla riflessione del rispetto dei più elementari diritti di libertà dell'individuo e al rispetto anche di convenzioni nei rapporti tra gli stati, non c'entra nulla la questione dell'evasione fiscale. Io pago, lo dichiaro sempre, lo ricordo chi ci ascolta, ho pagato il 57%, quest'anno dai primi conti mi avvio a pagare il 62% sul reddito lordo che realizzo, io ho una partita IVA, ho due società, lavoro in proprio, ecco, quindi non c'entra niente la questione della difesa degli evasori fiscali, la libertà dei capitali e degli impieghi in ordinamenti sui quali gravano aliquote marginali più basse della nostra è un principio basilare per rendere i capitali più efficienti. Di fronte a questo gli stati in crisi di gettito scatenano tutta una serie di recrudescenze, di guerre incrociate perché vogliono assicurarsi la maggior quantità possibile del gettito dei propri cittadini. Questa può essere un'esigenza comprensibile, ma se travalica in forme di pressione e di violazione delle libertà, allora bisogna che noi tutti ci preoccupiamo, perché altrimenti la storia del mondo, che ci ha messo alcuni secoli prima di arrivare al rispetto di questi diritti, può avere delle improvvise cadute verso la barbarie, perché questo è l'aggettivo giusto da usare, anche se molti di voi che mandano gli sms sono molto invece dalla parte dello Stato, perché dicono che noi qui stiamo facendo in questa ora una specie di radio evasore fiscale. Si tratta del contrario, perché chi si schiera dalla parte di uno Stato barbaro vuol dire che è abituato a esserne diventato uno schiavo. Queste sono le mie parole ben meditate, minoritarie, ma ogni tanto consentite che sui media ci sia anche questo punto di vista minoritario. Partiamo con telefonate di voi ascoltatori, vi provoco un po', come vedete, sentiamo come la pensa innanzitutto Franco da Padova. Prego Franco. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, come al solito. Stamattina la trovo un pochettino più liberale del solito, comunque. Volevo dire una cosa. Mio padre mi ha detto tanti anni fa, in Italia fino a prova contraria devi dimostrare di essere innocente. Io ho vissuto 30 anni della mia vita all'estero, purtroppo devo dire è una sacrosanta verità. Qualunque cosa tu fai qui devi dimostrare di essere innocente piuttosto che gli altri dimostrare che tu hai sbagliato. In Inghilterra, le voglio fare un esempio molto semplice riguardo l'evasione, in 17 anni di lavoro in Inghilterra io non ho trovato un'azienda, sia cliente che fornitore, che mi abbia detto vuoi acquistare in nero o vuoi vendere in nero, mai successo. Ora, sono perfettamente d'accordo con quello che lei sta dicendo su quello che si sta cercando di fare oggi. Se uno paga regolarmente le sue tasse in un paese, quello che, mettendola in parole semplici, gli rimane in tasca deve essere libero di farne quello che vuole, di andarli a esportare dove vuole, di farci quello che vuole. Quello che succede è questo continuo abuso della libertà dell'individuo. Grazie Franco, la devo interrompere. Luigi da Milano. Prego Luigi. Sì, buongiorno. Ci dica. Volevo porre la mia opinione su questo blitz e in particolare le modalità così roboanti in cui è stato diciamo, posto in atto. Io ho una piccola esperienza perché ho lavorato un po' nelle banche, diciamo anche in una banca svizzera in Italia, e mi pare di poter definirlo come oscillante tra l'inutile e il dannoso. Inutile perché le succursali di banche svizzere in Italia sono regolate dalla Banca d'Italia, quindi si guardano bene eventualmente dall'avere in cartoteca alcun riferimento a eventuali conti offshore. Anzi, l'obiettivo delle banche svizzere o estere in Italia è proprio quello di sviluppare l'attività di private banking onshore. E qui appunto il ragionamento sul fatto che sia anche dannoso, perché mi pare un rumore talmente appunto visibile che mi dà la sensazione che chi si appresterebbe a fare un'operazione di rientro approfittando dello scudo probabilmente si è un po' spaventato. Ecco, quindi mi viene quasi la sensazione di dire che l'interesse per appunto una modalità così roboante sia quasi, non dico di sabotaggio, ma non certo favorevole alla buona riuscita dell'operazione. Io la ringrazio, devo rinviare tra l'altro ai nostri ascoltatori che fossero interessati, ma comunque Sole 24 ha pubblicato in questi giorni degli articoli a firma del collega Antonio Iorio che spiegano come equalmente, una volta acquisite queste migliaia e migliaia di dati del blitz di due mattine fa, qualora per ciascuno di essi il sistema delle entrate volesse effettivamente poi effettuare dei riscontri e degli approfondimenti, le interrogazioni con il sistema di banche dati oggi esistenti, poiché dovrebbero essere autorizzate dal comandante regionale della Guardia di Finanza o dal direttore regionale delle entrate di volta in volta per ciascun singolo dato e per ciascuna singola operazione, ecco, già solo questo fatto rende pressoché impensabile pensare che l'acquisizione di queste migliaia e migliaia e migliaia di dati veramente avrà come seguito lo sviluppo di accertamenti per ciascuno di quelle migliaia, perché la procedura posta in essere proprio per effetto delle nuove norme emanate da questo governo, dopo che c'erano state polemiche, lo ricorderete, per l'accesso generalizzato al sistema delle banche dati fiscali e di operazioni bancarie sotto il governo Prodi, proprio per effetto delle norme restrittive per l'accesso al controllo di quelle banche dati, oggi procedere all'acquisizione di migliaia e migliaia di quei dati, se si trattasse di verificare con queste procedure poste in essere da questo governo, porterebbe a un vero blocco, cioè per giorni, giorni e giorni molte centinaia di addetti dovrebbero occuparsi solo di questo. Quindi punto interrogativo se davvero a seguire dai risultati che sono stati acquisiti ci saranno questi controlli. Antonio da Milano, prego Antonio. Sì, buongiorno. Senta, io sono francamente stupito, devo dire, da quello che sento e da quello che ho sentito sino ad ora. Vorrei immediatamente dire che sono un addetto ai lavori, quindi conosco un pochino i meccanismi. Per quanto riguarda la sua introduzione... Ma mi scusi, per far capire chi ascolta, quando dice addetto ai lavori, nel senso? Addetto ai lavori vuol dire che mi occupo di consulenza finanziaria prego. Di pianificazione fiscale. La sua introduzione è stata molto bella, molto, toccante, ma se dovessimo utilizzare questo metro anche con altri paesi che ci hanno aiutato in momenti difficili, gli Stati Uniti con il piano Marshall, dovremmo inchinarci tutte le volte che gli Stati Uniti dicono qualche cosa. Quindi penso che la Svizzera abbia fatto sicuramente tantissimo per l'Italia, ma certamente non ha fatto quanto hanno fatto gli Stati Uniti, e soprattutto ha dato una mano a chi nel momento di bisogno poteva permettersi di espatriare in Svizzera e di rientrare. Certamente, certamente. La seconda considerazione, francamente mi stupisco che l'esperienza di Piero Ostellino venga utilizzata per criminalizzare un sistema di controlli alla frontiera che altro non è che un sistema a fini antiterrorismo. Antiterrorismo? Cioè lei sostiene che l'autovelox al confine è per evitare questi notori flussi terroristici dalla Svizzera verso l'Italia? No, scusi, l'autovelox, lei lo sa benissimo, è uno strumento... Per beccare le targhe, guardi, serve solo a quello e con l'antiterrorismo non c'entra nulla. Mi consenta di diminuire il numero dei morti... No, nostre... no, serve a beccare le targhe di chi entra e chi esce dal confine. Ma guardi, allora lo dovrebbero fare solamente ai confini. Le migliori autostrade che noi abbiamo, dalla A4 alla... Ma infatti, infatti se lo fanno al confine, dove come è noto non si toccano velocità particolari, serve solo a quello. E il motivo per cui i giornali se ne sono occupati era esattamente quello. Va bene, per quanto riguarda l'azione che io penso abbia il beneplacito di Tremonti e non sia una azione indipendente su iniziativa esclusiva della Guardia di Finanza, certo, ritengo che l'Italia stia facendo solamente ciò che ritiene opportuno fare. Per quanto riguarda, mi pare, l'ultimo ascoltatore che ha detto che a seguito, o il penultimo, a seguito del pagamento delle tasse ognuno può esportare i capitali dove crede, io penso che questo sia assolutamente legittimo. Basta che l'esportazione dei capitali la faccia alla luce del sole e dopo averci pagato le tasse. Grazie, grazie. Ora le informazioni sulla circolazione stradale, poi riprendiamo con gli ospiti. Nove in punto, la versione di Oscar. Allora, ci stiamo occupando di questa recrudescenza dei controlli fiscali negli intermediari bancari svizzeri che operano nel nostro paese. Abbiamo sentito che tra gli ascoltatori c'è anche chi non la pensa come noi che abbiamo indirizzato questa trasmissione, a farvi riflettere sul fatto che è un po' scandaloso improvvisamente questa accelerazione, e forse serve semplicemente a far convincere qualcuno a rimpatriare attraverso lo scudo fiscale. Però quello che ci preoccupa sono le violazioni dei diritti che avvengono. Allora, Fassina, devo ammettere, è una trasmissione squilibrata e chiedo scusa con chi la pensa diversamente, perché per una volta non ho rispettato le regole dell'equo contraddittorio, dei tempi, eccetera eccetera, perché mi pare che prevalgano di solito nel nostro paese, nell'informazione, il battage naturalmente antievasori e quindi a favore del recupero dello Stato. Però lei ha criticato anche le modalità con cui il governo sta svolgendo questa sua azione, perché lei dice: lo scudo da una parte è troppo compromissorio, nel senso che è un condono, dà troppo anonimato, però se mi pare di capire, se fosse ancora meno propenso ad assecondare la riservatezza, cioè l'anonimato dei dati di chi fa rientrare e regolarizza i capitali, non avrebbe ancora meno successo questa azione di reimpossessamento dello Stato del suo gettito, cosa che mi pare invece sul quale lei aderisce, la sua parte politica aderisce? Domanda. Beh, a parte che la mia parte politica ha criticato radicalmente questo condono, e poi dipende in che contesto avviene, ripeto. L'anonimato serve esattamente a compensare il fatto che il governo italiano non ha rinegoziato accordi bilaterali con i paradisi fiscali. Nessun altro paese OCSE, nessun altro paese che ha fatto interventi di sanatoria di questo tipo ha mantenuto l'anonimato, perché con l'anonimato è evidente che può rientrare qualunque capitale, anche quelli della criminalità organizzata, anche quelli delle associazioni terroristiche. Quindi qui siamo davanti al fatto che per esigenze di cassa si commette potenzialmente, si mette a repentaglio seriamente la lotta anche alla criminalità organizzata. Ma mi faccia precisare un punto, perché mi pare che, io rispetto ovviamente le sue valutazioni, però qua c'è un travisamento del problema. Noi dobbiamo ricordare che qua stiamo parlando non di trasferimenti di capitali che hanno legittimamente pagato le imposte in Italia e cercano un paese dove c'è una fiscalità meno pesante, qua stiamo parlando di capitali che hanno evaso le imposte in Italia. Quindi la differenza è fondamentale, e vanno in Svizzera non perché ci sono aliquote più basse, vanno in Svizzera perché c'è il segreto bancario. E vorrei ricordare anche al dottor Ostellino che, oltre ai sacrosanti, io condivido le sue parole, diritti individuali, ci sono anche dei doveri nella nostra Costituzione, e tra i doveri c'è anche il dovere di pagare le imposte in base alla capacità contributiva che si ha, come dispone l'articolo 53. Quindi qui stiamo parlando di rapporti patologici, di trasferimenti di capitali che hanno evaso le imposte in Italia e che vanno in Svizzera perché gli viene garantita la copertura, ed è una differenza fondamentale. Ma guardi, però io le faccio osservare, irrompere con centinaia di agenti nelle sedi degli intermediari bancari che operano svizzeri, sì, ma che operano in Italia, in che senso secondo lei le operazioni di italiani che si servono di quegli intermediari bancari configurano quello che lei dice? Perché qui non stiamo parlando di illecite esportazioni attraverso fiduciarie schermate eccetera eccetera, qui si tratta di acquisire tutti i dati di tutte le operazioni degli italiani che agiscono con intermediari bancari svizzeri, cioè questa, in altre parole, mi scusi, è una forma di pressione a dire non usate intermediari bancari che abbiano una bandierina nazionale diversa da quella italiana. Guardate che neanche ai tempi del fascismo si facevano queste cose. Guardi, io l'ho premesso in apertura che questa la considero l'ennesima iniziativa propagandistica del ministro. Ah, ecco, no, però contemporaneamente però mi dice, qui stiamo parlando di evasori, cioè io se devo lavorare con un cliente a Lugano e quindi mi servo di una banca svizzera a Milano perché intermedia il rapporto tra me qui a Milano e il mio cliente a Lugano, comunque io arrivano lì e prendono i miei dati, ma stiamo scherzando? No, ma il punto non è questo. In Italia c'è una legge in base alla quale gli intermediari bancari devono comunicare i nomi, soltanto i nomi, ma non le transazioni di chi ha dei conti correnti. Quindi questa è la disposizione, perché le faccio notare che negli Stati Uniti, un paese certamente non sospettabile di essere di socialismo reale, quando l'Internal Revenue Service indaga su un contribuente, accede senza nessuna richiesta di autorizzazione direttamente al conto corrente di quel contribuente. Cioè la lotta all'evasione fiscale, che è una patologia, è un reato, è una sottrazione di risorse alla collettività, non stiamo parlando... Chiaro, si finisce. No, le dico che nonostante l'iniziativa propagandistica, non è come dice lei che poi questi dati non vengono utilizzati, perché qua non si sta controllando il contribuente, qua si sta controllando la comunicazione dell'agenzia, certo, esatto, verso l'anagrafe, corretto, tributaria. È semplicissimo per la gente. Io non credo che troveranno molto, perché ci sono forme molto più semplici per aggirare la legge senza violarla. Quindi questa, ripeto, è un'iniziativa propagandistica. Grazie. Chiedo a Ostellino l'ultimo minuto di fare il bilancio di questa giornata. Il bilancio di questa giornata è sconfortante, cioè abbiamo una forte vocazione noi italiani ad essere sudditi invece che cittadini. Siamo stati fascisti, molti di noi sognavano di diventare comunisti e quindi ci meritiamo di vivere in uno Stato canaglia, uno Stato che ci tratti male, che ci faccia pagare più tasse di quello che dovremmo pagare e che ci fotografi di nascosto quando passiamo dalla frontiera. Ma io faccio un esempio molto semplice. Qualche sera fa un tassista milanese era stato appena rapinato da alcuni che erano saliti sul taxi. Bene, questo stesso tassista mi aveva detto che in Sicilia aveva parlato dei problemi dei tassisti al nord e a Palermo gli avevano detto: ah, per noi non ci sono problemi perché provvede la mafia, cioè non ci sarebbe nessuno qui che cerca di rapinare un tassista perché la mafia provvede immediatamente ad ammazzarlo. Ora, se metà del nostro paese, la sicurezza dei cittadini di metà del nostro paese è garantita dalla criminalità organizzata, e coloro i quali pagano il pizzo in qualche modo assicurano la sicurezza anche dei cittadini che non devono pagarlo perché non fanno imprenditoria, bene, questo paese è morto, cioè un paese che non riesce a garantire la sicurezza dei suoi cittadini, ma la cui sicurezza è garantita dalla criminalità organizzata, io mi chiedo perché un siciliano dovrebbe pagare le tasse quando paga già il pizzo per essere sicuro e per garantire ai suoi concittadini che non fanno gli imprenditori di essere sicuri contro le rapine o contro lo svaligiamento delle sue case. E su queste amarissime considerazioni di Piero Ostellino, che io condivido in pieno, chiudo questa puntata dichiaratamente per una volta da una sola parte, perdonate, equilibriamo il resto che va dall'altra, che difende le legittime istanze dello Stato contro quei fetentoni che sono gli evasori. Sottoscrivo, però attenti alle forme e ai modi, perché un passato terribile rischia a volte di reinverarsi in nome delle più alte virtù. Quando queste virtù sono dello Stato, io diffido. Appuntamento a domani, grazie regia Piero Corleone e Alessandro Marcatulli, redazione La Linea Giornale Radio. Radio 24. La passione si sente.